Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto mondo. Because I feel great. I feel like perfect. So I think this was a blessing from God that I caught it. It really did a fantastic job. I want to get for you what I got, and I'm going to make it free. Giulia. E Donald Trump, che non ha parlato in pubblico, ha però diffuso un video preregistrato appena fuori dallo studio Ovale, quindi all'aperto di fronte alla Casa Bianca, e ha detto: mi sento benissimo, considero il fatto di aver contratto il Covid una benedizione di Dio e voglio dare a tutti voi gratis il farmaco che ho preso io, sia quello sperimentale, gli anticorpi monoclonali, sia il Remdesivir. Sì, però questa cosa è veramente, perché voglio dare, tu sei il presidente, tu devi, se vuoi fai l'annuncio e dici io sto per dare questo. Ora stavolta veramente incredibile, sì, tra l'altro naturalmente il video è stato ripreso, poi Trump ha cominciato a twittare a raffica durante il dibattito che poi c'è stato alle 9 di sera ieri ora americana. E l'altra notizia che è stata molto ripresa e che troviamo oggi sui giornali è che a fronte, e anche l'apertura di Financial Times, a fronte di queste dichiarazioni sulla sua salute, continua a essere bloccato il pacchetto di stimoli che invece dovrebbe servire per l'emergenza economica prima che per quella sanitaria. E poi c'è anche il tema, a proposito di condizioni di salute e di termini che non riguardano Dio per chi ci crede, il suo medico curante, quello che abbiamo conosciuto attraverso i nostri audio, Sean Conley, ha fatto solo quelle due conferenze stampa di cui abbiamo sentito brevi stralci, e ieri ha pubblicato un brevissimo comunicato stampa senza dati precisi, quindi diciamo che non è si infittisce il mistero sulle reali condizioni di Donald Trump. E in tutto questo naturalmente si è inserito il dibattito tra i due vicepresidenti, regole completamente nuove, nuova giornalista, una giornalista di USA Today, i due candidati non erano in piedi come Joe Biden e Donald Trump, ma erano seduti, separati da un plexiglass come quelli che avevamo immaginato per le scuole. Domanda e poi possibilità di rispondere per due minuti senza essere interrotti. Il risultato è stato, questa è l'interpretazione di tutti i giornali e di tutti i network, un dibattito civile ma con non moltissima soddisfazione, perché di fatto alle domande, a volte anche molto precise, della giornalista, i due candidati, sapendo di poter parlare senza essere interrotti dalla giornalista, non hanno risposto. Ma se volete sentiamo la voce di Kamala Harris. Whatever the vice president is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country. E dice: qualsiasi cosa il vicepresidente dica che questa amministrazione ha fatto, evidentemente non ha funzionato. Sappiamo che ci sono oltre 210.000 morti, perché la domanda della giornalista era stata, e ripeto, Mike Pence non ha risposto, ci deve spiegare perché negli Stati Uniti, naturalmente in proporzione alla popolazione, ci sono stati più morti e più contagi che nella maggior parte degli altri paesi occidentali. A questa risposta Mike Pence non ha dato, appunto, a questa domanda non ha dato una risposta. C'è un ascoltatore che dice: basta con gli insulti a Trump, ancora con gli insulti, dice Roberto Lavarese. Per quanto mi riguarda, io non ho fatto un insulto, io ho detto un discorso diverso. Tu esci dall'ospedale guarito dal Covid perché hai avuto la possibilità di usare farmaci sperimentali, hai 250.000 persone morte nel tuo paese, e io non voglio sentire che mi dici vorrei usare, che anche voi possiate. Io vorrei che tu dicessi: io mi sto impegnando affinché questo medicinale sia presto disponibile, certo, per tutti. Questo è quello che deve fare un presidente, no, altrimenti non serve a niente quella dichiarazione, è addirittura insultante nei confronti delle vittime. Davvero, mi sento di dire anch'io, non lo vogliamo insultare, noi semplicemente ascoltiamo le sue parole o leggiamo i suoi tweet e cerchiamo di analizzarli. Ieri Mike Pence, di nuovo a domanda, ha risposto che entro l'anno ci sarà il vaccino e che questo è un merito dell'amministrazione Trump. Sappiamo, e sicuramente lo sa anche l'ascoltatore di Varese, che tutti gli amministratori delegati delle più grandi società farmaceutiche con le quali Trump sta negoziando hanno invitato alla calma, non hanno intenzione di produrre un vaccino disponibile per tutti entro la prima metà del prossimo anno, perché ci sono questioni di sicurezza oltre che di efficacia. E ricordo anche, sempre all'ascoltatore, ma li trova questi dati, non li diciamo noi, che quasi la metà degli americani non hanno intenzione di prendere questo vaccino, anche fosse disponibile prima delle elezioni. Quindi tutto questo contraddizione di dichiarazioni non ha fatto che innescare una mancanza di fiducia nella scienza e forse anche nello stesso farmaco che Donald Trump ieri ha promosso. I famosi anticorpi monoclonali, speriamo che arrivino presto davvero. Ricordiamo che in Italia si sta facendo sperimentazione a Siena su questo, a dicembre sull'uomo, e già in marzo forse ci sarà qualcosa sul mercato. Ma infatti io davvero invito, anche perché è molto diversa la politica americana dalla nostra, ieri per esempio Kamala Harris si vedeva che era il suo primo dibattito, perché continuava a guardare Mike Pence anziché guardare la telecamera, mentre Mike Pence, già molto più navigato, tra l'altro lui ha alle spalle anche forse non lo sapevi Alessio, non lo sapevo neanche io fino a stamattina, anche un passato proprio di DJ radiofonico, non di DJ ma insomma di conduttore speaker radiofonico, sì, e quindi è molto attento a questo. Poi non è particolarmente brillante, però guardava bene la telecamera, voleva essere il più incisivo possibile. E però credo che sabato avremo già una parodia. Tra l'altro abbiamo un brevissimo audio di Pete Buttigieg che è saltato fuori, lo ricorderete, era uno dei quello candidati, dal nome impronunciabile. Dal nome impronunciabile, lui è stato in tutta la preparazione che ha fatto Kamala Harris, lui ha impersonato Mike Pence, e qui ieri a una trasmissione gli chiedono: ma ti hanno già contattato da Saturday Night Live? Cioè si è prestato a fare l'imitazione Esatto. di Pence. Cioè, no, lui faceva prendeva il ruolo di Mike Pence, quindi anticipava le domande che Mike Pence avrebbe potuto, o le obiezioni che Mike Pence, è proprio un allenamento che loro fanno per questi faccia a faccia. Se volete sentiamo Pete. Sentiamo. SNL is looking for somebody. Might give him a call. Yeah. Who played the fly in the mock debates? Ecco, lui dice I guess the fly was the only thing that il presentatore gli dice SNL, cioè Saturday Night Live, credo che stiano già cercando un imitatore per Mike Pence, e lui si mette a ridere: no, non mi hanno ancora contattato. E poi c'è questo episodio curioso di una mosca che si è appiccicata proprio ai capelli di Mike Pence, e su internet è uscito di tutto, che aveva troppa gelatina, che aveva troppo gel. Però questa mosca si vede chiaramente per l'ultima metà, l'ultimi 30 minuti del faccia a faccia, è rimasta appiccicata, e quindi effettivamente il presentatore c'era qualcosa gli dice: ma avete già previsto anche una Saturday Night Live, se ti hanno contattato la mosca, chi fa la mosca? Insomma, si cerca, però è stato molto civile, un dibattito davvero rispetto a quello tra Donald Trump e Joe Biden, molto più civile. Non era difficile migliorare da quel punto di vista. Abbiamo ancora non tanto tempo, un minuto, però titoli sui giornali europei. Le Monde mi suggerisci che si occupa del Caucaso, è un sì, Le Monde, del, esatto, un altro, ieri abbiamo citato, avevano anticipato alcuni giornali quello che sta succedendo in Kirghizistan, e ora sappiamo che lì la situazione si complica. Le Monde parla della crisi nel Caucaso, Le Figaro parla delle nuove pressioni militari della Cina sull'Himalaya, insomma tante crisi. E poi c'è la Grecia, Financial Times ha la foto della mamma del ragazzo ucciso dai militanti di Alba Dorata, che esulta ed è in prima pagina su Financial Times e naturalmente su tutti i quotidiani greci, perché ieri appunto, oltre a concludere il processo per l'assassinio di questo ragazzo, è anche stata messa fuori legge questa organizzazione neonazista Alba Dorata. Che succede nei cinema tedeschi? Una foto molto inquietante, e dice c'è una sala con tutte le poltrone rosse, una sola persona seduta, e il titolo Rettemi, salvatemi, perché naturalmente, come in tutti i paesi, abbiamo parlato ieri, qualche giorno fa, del posticipo dell'uscita di James Bond, in tutti i paesi quello dei cinema è uno dei settori in assoluto più in ginocchio. Grazie Giulia, è tutto per oggi, con Paolo Colleoni in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo naturalmente domani e tra poco per il breve aggiornamento delle 14 da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.